Abbiamo due fatti fondamentali. Siamo isolati ed eterodiretti. Isolati perché negli ultimi 3-4 anni non siamo stati più nei circuiti fondamentali del mondo, perché a livello di Europa ci estraniavamo sempre di più, perché sul Mediterraneo contavamo sempre di meno. E l'isolamento è quello che ci porta poi all'eterodirezione. Perché se sei isolato gli altri decidono per te, devi appartenere a un circuito per contrattare e pensare di contare. Qui noi siamo rimasti fuori. Questo non può non rendere fragile un popolo, non può rendere un popolo in qualche modo vergognoso, e questo naturalmente crea quella forma di sottovalutazione, di cattiva reputazione di noi stessi che abbiamo coltivato negli ultimi anni. Lei ha indicato 5 punti fondamentali per uscire dalla crisi. L'Italia d'oggi ha bisogno di restare ancorata a 5 punti fondamentali che non vanno molto di moda, ma che sono a mio avviso l'unica cosa che può permettere non solo la solidità ma anche il rilancio. Primo, attaccarsi alla nostra economia reale, mai troppa finanza e più economia reale. Secondo, attaccarsi alla logica della lunga durata, fare discorsi di tempi lunghi, non di cose ad horas, perché sennò restiamo tutti angosciati dagli eventi delle ore e nessuno riesce a capire cosa succede, non dico il mese prossimo, ma anche la settimana prossima. Legarsi ai conflitti reali che ci sono nel paese, perché ci sono, non sono soltanto quelli degli indignatos o del nord e sud. Quarto, sviluppare quelle molte attività di nuova relazionalità, che sono dalle forme di spiritualità alle realtà sociale, informatico e telematico, e che quindi sono totalmente nuove. Quinto, ritornare a rappresentare la rappresentanza. Queste 5 cose, secondo me, sono comunque necessarie qualsiasi cosa succeda.